Europa 24. Ben ritrovati da Laura Bettini per questo appuntamento con Europa 24, nel quale parleremo del programma europeo per l'ambiente e l'azione per il clima, più noto come programma LIFE. Lo conosciamo per nome un po' tutti perché è un programma che esiste dal 1992 ormai e che esisterà per almeno altri 6 anni, visto che l'ultimo bando copre il periodo che va fino al 31 dicembre 2020. La dotazione finanziaria per questo periodo è di oltre 3 miliardi e 400 milioni di euro e sarà ripartita in 2 sottoprogrammi, quello per l'ambiente con maggior dotazione, 2 miliardi e mezzo, e quello azione per il clima con la copertura restante. I primi inviti a presentare proposte sono appena stati pubblicati, ma ce ne saranno anche altri. Per maggiori informazioni comunque potete rivolgervi direttamente alla Direzione Ambiente della Commissione Europea. Noi ne parleremo oggi da un punto di vista più generale con Angelo Salsi, responsabile dell'unità LIFE presso la Commissione Europea. LIFE nasce oramai più di 20 anni fa, il 21 maggio del 1992, e nasce insieme alla direttiva Habitat, la direttiva che ha come obiettivo principale quello di creare una rete di aree protette in tutta Europa. LIFE finanzia dei progetti, abbiamo finanziato credo oramai più di 3.000 progetti dal lontano 92. LIFE continua ad esistere ed esisterà ancora fino almeno al 2020 e speriamo che continui anche ulteriormente, perché LIFE è uno strumento estremamente appetibile per tutti i cittadini europei. Che può dare anche, immagino, aiutare la diffusione delle buone pratiche, no? Perché voi in tutti questi anni avrete un archivio di tutto quello che è stato fatto, di quelli magari che sono i progetti che hanno dato maggiore soddisfazione. Sì, qualsiasi cittadino può andare tranquillamente in un motore di ricerca qualsiasi e cliccando LIFE ha un'ottima probabilità che gli appaia come prima riga, come prima risposta il sito del programma LIFE. In questo sito trova il database di tutti i progetti, quindi uno, ammettiamo che sia interessato all'efficienza energetica negli edifici, mette queste parole chiave nel motore di ricerca e trova un certo numero di progetti, trova anche tutta una libreria di documenti e soprattutto la possibilità di contattare il beneficiario del progetto e quindi ovviamente di andare a cercare il know-how e l'esperienza che queste persone hanno sviluppato grazie al loro progetto e eventualmente replicarlo. Per quanto riguarda il nostro paese, negli anni ha aderito con entusiasmo, è stato tiepido rispetto a questa iniziativa? Ci sono tante cose su cui l'Italia tende sempre a parlare male di se stessa e alcune come la nostra capacità di vestirci bene o di mangiare bene di cui andiamo particolarmente fieri. Se io posso aggiungerne una sul lato positivo, questa è proprio la partecipazione dell'Italia a LIFE. Fin dal 92, per ragioni che ancora oggi ci sono parzialmente ignote, l'Italia e la Spagna sono stati di gran lunga i migliori clienti di LIFE. È un segnale di un'Italia che è ancora vitale, che ha delle idee, che ha voglia di fare, perché altrimenti la gente non si metterebbe a inventare questi progetti LIFE che, le assicuro, da un punto di vista della preparazione e redazione sono difficilissimi, richiedono mesi di lavoro, la selezione è un processo durissimo. Le voglio chiedere un'ultima cosa che è questa: quando un progetto diciamo si conclude, c'è una sorta di verifica con voi per sapere come è andato, come non è andato, che cosa può servire magari implementare o no? C'è una cosa di cui andiamo particolarmente fieri, è il fatto che LIFE, la Commissione l'ha interpretato fin dal primo giorno, non come uno strumento dove la Commissione è una specie di banchiere, noi diamo i quattrini e poi una volta che il dossier è chiuso lo chiudiamo amministrativamente e ce ne dimentichiamo. Noi ci riteniamo all'interno di ciascuno dei progetti che finanziamo, anche se non siamo noi che fisicamente eseguiamo il lavoro nel progetto, ci riteniamo dei partner. E questo partenariato lo interpretiamo in una forma dove seguiamo quasi quotidianamente ogni singolo progetto, abbiamo rapporti diretti con il beneficiario, visitiamo ogni progetto che è stato finanziato e la storia non finisce nel momento in cui finisce il progetto, cioè quando il pagamento finale viene realizzato. E le dirò che abbiamo una politica di verifica e di monitoraggio dei risultati ex post ai progetti LIFE che ci porta a visitare dei progetti 20 anni dopo che sono stati finanziati. È tutto per Europa 24, ci ritroviamo lunedì. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.